Prima edizione. E alle 6:13 ancora una buona giornata, un buon lunedì 20 settembre, ancora un ben svegliati da Anna Migliorati e dalla redazione di GR24. È prima edizione, istruzioni per l'uso per la giornata di oggi, le notizie che ci attendono nelle prossime ore, ma come sempre cominciamo la nostra giornata, la nostra sveglia, guardando i quotidiani che invece troverete in edicola. Quotidiani sui quali sono tre le notizie essenzialmente che spiccano questa mattina un po' per tutti. Da una parte le notizie economiche, col fine settimana l'incontro del G20 che ha dato un'accelerata, o almeno così si spera, sul fronte della crisi economica. Dall'altra parte la politica italiana, e poi un'altra notizia che è arrivata ieri e che ha destato molto interesse da parte dei quotidiani italiani, vale a dire l'Arabia Saudita con la decisione per la prima volta di concedere il voto alle donne. La paura delle proteste porta il voto alle donne, così leggiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera. Ma dicevamo, aperture pressoché alternate tra crisi e politiche. Allora, restando sempre sul quotidiano di Via Solferino, 3.000 miliardi contro la crisi, piano dei grandi per l'euro, ma restano dubbi e divisioni. Giovedì il Parlamento tedesco decide sugli aiuti alla Grecia. Così apre il Corriere della Sera, che decide di mettere invece in taglio centrale la politica italiana. Berlusconi: mi dimetterò soltanto se ci sarà la fiducia. Casini chiede le urne. Bersani pronto a un governo di emergenza. Il Messaggero, stessa scelta. Il piano per salvare l'euro apre la prima pagina del Messaggero di questa mattina. A centro pagina: lascio solo se sfiduciato. Berlusconi al contrattacco. E poi l'immagine, vi dicevo, svolto in Arabia: sì alle donne in politica. La Repubblica fa la scelta opposta, apre invece con la politica italiana. Berlusconi: non mi dimetto, questo è uno stato di polizia. Il premier attacca i PM, e Alemanno se la prende invece con la Lega: basta cerchio magico anche. E poi taglio centrale invece della Repubblica: il piano da 3.000 miliardi per salvare l'euro dal contagio. G20, allo studio un maxi intervento per le banche in caso di default greco. Anche qui l'immagine, la svolta in Arabia Saudita: sì alle donne in politica. La Stampa, scelta simile a quella di Repubblica: lascio solo se mi sfiduciano. Berlusconi in settimana il decreto per la crescita con 27 misure. E poi più sopra, piano da 3.000, con una sorta di finta apertura La Stampa questa mattina, piano da 3.000 miliardi, così salveremo l'euro, sarà rafforzato il capitale delle banche. Qualche segnalazione dalla prima pagina del quotidiano torinese, che riporta anche un reportage nelle pagine interne che ci porta in Islanda, il primo paese investito davvero pesantemente dalla crisi in Europa. Dal crack al sogno della moneta unica. Gli esperti sono sulla strada giusta, resta solo il problema dell'export, ma la corona svalutata non ci aiuta. L'Islanda il crack lo ha superato. Così sulla Stampa, anche qui l'immagine a centro pagina invece è sempre la stessa, svolta in Arabia: le donne potranno votare. Come dicevo, comunque sicuramente un appuntamento storico. A fondo pagina della Stampa una curiosità per quanto riguarda la pagina sportiva: è il campionato più lento degli ultimi 20 anni. Parliamo naturalmente del campionato di calcio. Frenano le big, senza penalizzazione l'Atalanta sarebbe al primo posto. Due squadre in testa dopo 4 turni non è mai successo nell'era dei 3 punti. L'ultima stagione nella quale si trovarono in vetta 3 squadre con appena 2 vittorie fu il 1991-1992. Così la Stampa. Altre segnalazioni curiose, ne parlerà più avanti nella nostra mattinata Alessandro Milan, ma qualche segnalazione ve l'anticipiamo. Ancora invece dal Corriere della Sera: massacrati per un sorpasso, feriti a Milano con il CRIC. Così sulla prima pagina del Corriere della Sera, Isabella Bossi Fedrigotti scrive: in auto si dà il peggio di sé. E ancora qualche segnalazione della Repubblica. Invece il paese dove nascono più stranieri che italiani si chiama Novi di Modena, e all'interno anche qui un ampio racconto. Il Sole 24 Ore del lunedì: crescita, tutte le riforme a metà. È un ampio focus questa mattina sul Sole 24 Ore. Dagli incentivi alle liberalizzazioni, provvedimenti bloccati a un passo dal traguardo. All'esame del governo ora ci sono vecchie e nuove misure per il rilancio dell'economia. Resta però il nodo delle risorse. Così scrive questa mattina il Sole 24 Ore nell'edizione del lunedì. Questo per quanto riguarda i quotidiani italiani. Come sempre noi uno sguardo però a quest'ora del mattino lo diamo anche ai siti stranieri per vedere un po' gli altri su cosa puntano l'attenzione. E puntano, c'è da dire, pressoché tutti l'attenzione sull'incontro nel fine settimana a Washington del G20, che sembra aver puntato per la prima volta su una diversa strategia per la crisi. Allora cominciamo dal Times. L'Eurozona imposta un massiccio piano di salvataggio in stile USA, così titola questa mattina il Times. Piani di emergenza vengono redatti in queste ore per una spinta enorme, così scrive il Times, per il salvataggio della zona euro per proteggere il sistema bancario dalle ricadute della crisi del debito greco. Il Times ha appreso che sono agenti tedeschi che stanno studiando i piani per aumentare le dimensioni del fondo salva stati e, scrive il Times, lo schema è simile al salvataggio da 700 miliardi di dollari avviato negli Stati Uniti da George Bush nel 2008. Questo ci sarebbe dietro gli incontri del fine settimana, almeno stando al Times. Il Financial Times punta invece su un altro tema. UBS china il capo sulla strategia dopo lo scontro, rinnovamento della governance. Parliamo della vicenda dell'amministratore delegato di UBS, Oswald Grubel, che ha lasciato la banca dopo lo scandalo del buco da 2,3 miliardi di dollari generato da una truffa da operazioni fuori controllo di un trader del gruppo. Al suo posto, scrive il Financial Times, è stato nominato ad interim Sergio Ermotto, ben noto in Italia per essere stato fino allo torno scorso vice di Unicredit. In Francia, la Francia in queste ore è decisamente alle prese con la sua rivoluzione politica. Si è votato ieri per il Senato, Libération, la sinistra, la gauche, conquista una vittoria storica al Senato. I socialisti pensano di aver vinto abbastanza seggi per la maggioranza assoluta della sinistra, la prima sotto la Quinta Repubblica. Le Monde, anche qui vittoria storica della sinistra, a 7 mesi dalle elezioni presidenziali si rovescia in Francia il quadro politico e il racconto sul sito questa mattina di Le Monde è la sera in cui la sinistra prese il Senato. E allora in Francia andiamo anche noi con Prima Edizione. E per cominciare questa mattina subito con un'analisi sul cambio di passo che sembra prospettarsi a Parigi con il voto del Senato francese, Marco Moussanet, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, e subito la domanda ovviamente, Marco, cosa rappresenta questo cambiamento? Beh, ci sono due aspetti. Dal punto di vista concreto in realtà abbastanza poco, nel senso che il Senato in Francia ha un ruolo nettamente subalterno rispetto alla Camera e quindi questo non cambia la sostanza delle cose, dei meccanismi legislativi francesi. Dal punto di vista politico invece l'impatto è sicuramente molto forte perché si trattava dell'ultimo test elettorale prima delle presidenziali di fine aprile, inizio maggio dell'anno prossimo e certo il fatto che la sinistra abbia conquistato per la prima volta nella Quinta Repubblica, dal 1958 il Senato era sempre stato in mano alla destra, che abbia conquistato la Camera Alta del Parlamento è sicuramente un elemento di grande disturbo per la campagna elettorale di Sarkozy. Ecco, in realtà Marco, il meccanismo di elezione del Senato è diverso da quello della Camera. Sì, i senatori non vengono eletti appunto con elezione diretta, vengono eletti dai cosiddetti grandi elettori, e cioè dei rappresentanti degli enti locali, comuni, province, regioni. Sono circa 150.000 in Francia che si occupano poi di eleggere i senatori, quindi un meccanismo un pochino complicato e in realtà non se ne era parlato molto. Beh, da un lato appunto per il fatto che il Senato è un ruolo appunto decisamente minore rispetto a quello della Camera, ma anche perché in effetti nessuno ci credeva davvero. Si sapeva che i socialisti avrebbero ottenuto un buon risultato intorno ai 20 seggi in più, gliene servivano 23 per conquistare la maggioranza. In realtà alla vigilia questo obiettivo sembrava quasi impossibile da raggiungere, invece ce l'hanno fatta. Ecco, resta il fatto appunto che questa mattina sui siti francesi si parla di vittoria storica della sinistra, che di sicuro non fa sorridere il presidente Sarkozy. Marco, dicevi che il Senato ha scarsi poteri, però ecco, c'è qualche possibilità secondo te che blocchi iniziative governative? No, è quello che dicevamo prima, un ruolo subalterno, nel senso che comunque la Camera ha l'ultima parola sull'approvazione delle leggi e quindi il Senato in realtà non ha alcuna possibilità reale di blocco. L'unica partita che può giocare la sinistra con il Senato a disposizione è quella di riuscire a bloccare l'operazione in cui Sarkozy entro fine dell'anno voleva far approvare dalle due Camere riunite a Congresso la revisione costituzionale per inserire il vincolo di bilancio. Per fare questo appunto ci vuole una maggioranza qualificata dei 3/5 delle due Camere riunite insieme a Versailles. Il fatto che il Senato sia oggi in mano alla sinistra rende questa operazione assolutamente impossibile. Grazie a Marco Mussani, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. Continueremo naturalmente a parlarne nel corso della giornata. Ora invece, come spesso facciamo a prima edizione con le ultime notizie, voltiamo pagina e torniamo invece in Italia. Torniamo in Italia per le ultimissime dalle agenzie e per soprattutto le notizie della notte. Una notizia di cronaca di queste ore è una maxi operazione scattata davvero all'alba contro la pirateria audiovisiva. In sostanza le tessere Sky, Mediaset per vedere in chiaro le trasmissioni. Cosa è successo? Ce lo spiega Adriana Fracchia. Buongiorno anche a te. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Come hai appena detto, una maxi operazione della Polizia delle Comunicazioni è stata fatta per contrastare la pirateria audiovisiva che danneggiava in particolare Sky e Mediaset. Sono stati eseguiti 39 provvedimenti di perquisizione a carico di altrettante persone, tutte indagate per truffa informatica e violazione della normativa sul diritto d'autore. Gli indagati, di cui 28 residenti in Lazio, 7 in Sicilia, 3 in Piemonte e 1 in Emilia-Romagna, sono tutti professionisti, titolari di esercizi commerciali, aziende e anche operatori di settore. Cosa avrebbero fatto in sostanza? Utilizzando software e apparecchiature idonee avrebbero violato i sistemi di decodifica dei prodotti televisivi offerti a pagamento dai maggiori distributori, tra cui appunto Sky e Mediaset, e avrebbero distribuito via internet i codici di accesso ai diversi pacchetti, consentendone la visione abusiva a numerosi utenti della rete. E questi ultimi, per avere il servizio, pagavano agli indagati cifre più basse di un legittimo canone di abbonamento. Tutte le persone che hanno usufruito illecitamente di questo servizio, che sono diverse migliaia, usavano una procedura totalmente informatica che veniva denominata card sharing e consentiva appunto a più soggetti di condividere in modo illecito il segnale legittimamente destinato soltanto ad un utente che pagava regolarmente il suo canone al distributore. Ora gli utenti individuati rischiano fino a 3 anni di reclusione. Tra i prodotti televisivi più richiesti ed oggetto di questo mercato illegale c'erano soprattutto eventi sportivi, reality show e pacchetti di cinema in HD. Ora, grazie al pattugliamento della rete, la Polizia delle Comunicazioni è riuscita ad individuare le persone coinvolte e dai sequestri effettuati ha potuto ricostruire i vari tasselli di un sistema piramidale che ha anche ramificazioni internazionali. Ed è tutto per ora. E grazie intanto ad Adriana Fracchia. Dicevamo, queste le ultime notizie di cronaca, almeno per quanto riguarda la notte. Ancora uno sguardo ai mercati. Dicevamo, oggi grande attenzione su come riapriranno le borse europee dopo il fine settimana e il G20. Allora andiamo ancora a Tokyo. Proprio in questi istanti il Nikkei perde l'1,81%. Notizie che non fanno per il momento ben sperare, ma ne parleremo più avanti. Cercheremo di capire cosa ci aspetta per quanto riguarda oggi sui mercati. Prima edizione. 6:33 minuti, ancora prima edizione, ancora buona giornata da Anna Migliorati per queste prime ore del mattino e subito le prime informazioni del mattino. È il momento per noi di Italia in controluce. Italia in controluce. Buongiorno, buona mattina, è la prima edizione di Italia in controluce, inizia dunque una nuova settimana di questo programma che indaga ogni giorno su cronaca, politica, costume e spettacolo. Nel mercato politico quanto vale oggi l'UDC, l'Unione di Centro? È davvero, come dicono alcuni sondaggisti, il vero ago della bilancia tra centrodestra e centrosinistra in termini elettorali? Barbara D'Amico ha raccolto le testimonianze dei militanti centristi. Per quanto riguarda la questione nazionale, mi pare che la posizione dell'UDC sia chiara, cioè l'UDC chiede un passo indietro di Berlusconi e chiede un governo di larghe intese per affrontare l'emergenza economica che c'è, ecco, capiamo che finora non ha avuto successo questa proposta. No, non è che quando ci diamo un passo indietro chiediamo a Berlusconi di scomparire dalla scena politica, per carità, chiediamo a lui un gesto di responsabilità e di collaborare a costruire una situazione nuova. Secondo me ha maggiore forza di movimento oggi, tant'è vero che la percentuale di consensi che abbiamo è molto superiore a quella di quando eravamo nel centrodestra organico, diciamo, ecco. È un po' diversa la nostra posizione da quella del PD, Ma è come in questo momento, stante così le cose, noi non andremo né col centrosinistra né col centrodestra. Coraggiosi siamo stati noi 2 anni fa, che abbiamo avuto coraggio di assumerci anche la responsabilità di una scelta che abbiamo fatto e abbiamo difeso, con il rischio, come è successo per la Fondazione Comunista, di sparire. Da qualche d'uno viene detto ancora, ma non si capisce, di mandati di qua e di là. Perché bisogna essere per forza di qua e di là, o responsabilmente possiamo anche stare né di qua né di là e al centro? Forse qualche d'uno potrebbe dirci così, ma la voce e il verbo è sempre quello. Non è che stiamo ammiccando rispetto a un PDL che ci sta corteggiando. Purtroppo prendiamo atto che nel centro-sinistra, notizie dell'altro giorno, ascoltando quanto è avvenuto alla festa dell'Italia dei Valori nel ritrovo di Vasto, c'è stata una riunione tra Vendola, Bersani e Di Pietro, e che quindi riconferma un raggruppamento con grandissime divergenze, che poi credo che sarà un problema a quel punto cercare di omogeneizzarle. E non mi meraviglierei, così come sento alcuni riflessi già a livello regionale, che alcuni miei colleghi del PD, probabilmente che hanno più in comune con me che con qualcheduno che rappresenta più l'estrema sinistra, forse farà delle riflessioni rispetto a un'ipotesi di raggruppamento di questo tipo. Ma analogamente di là nel centrodestra, che oggi con grande fatica e con grande imbarazzo sta tenendo in piedi un renudo. Io credo che i corteggiamenti che avvengono da entrambi le parti siano corteggiamenti sinceri. Poi un minimo di opportunismo in politica c'è sempre, quindi io non è che mi voglio nascondere dietro un dito o far finta di non vedere. La politica la si legge negli atti legislativi e amministrativi, gli schieramenti politici sono un'altra cosa. Ci hanno accusati negli ultimi tempi di tenere un atteggiamento vicino al centrodestra. Questo è falso, abbiamo sempre tenuto un atteggiamento di responsabilità, non dando nessuna impressione di andare né dalla parte dall'altra, perché la nostra intenzione è segnare, ovviamente con decisione, una posizione centrale. Italia in controluce, torniamo oggi 13.30, Radio 24. E con prima edizione torniamo in studio e cominciamo a parlare di quello che accadrà nella giornata di oggi. Una notizia che ci aspetta in questo lunedì 26 settembre. Ancora buona giornata, Dana Migliorati. Allora, che succede oggi? Il Consiglio Episcopale Permanente della CEI si riunirà a Roma da oggi fino a venerdì. Sul tavolo c'è un tema spinoso, perché all'ordine del giorno ci sono le linee guida in caso di abusi sessuali su minori. Allora, cominciamo a parlarne subito. Questa mattina, cercando di capire cosa ci attende, ne parliamo con lo storico e sociologo Massimo Introvigne. Buongiorno. Tutto deciso, è già tutto chiaro per queste linee guida? Ma le linee guida sono chiare, con le ultime modifiche del diritto canonico. Si tratta dunque anche per l'Italia di adattare una normativa che a livello internazionale per tutta la Chiesa è già chiara alle nostre particolari situazioni nazionali. Il che non toglie che sia una ferita dolorosa per la Chiesa. Ancora giovedì a Berlino il Papa ha detto: io capisco chi lascia la Chiesa. È una ferita che non è ancora chiusa? No, la ferita non è chiusa, e il Papa ci ricorda sempre che gli atteggiamenti difensivi, negazionisti, non hanno alcun senso. Certo, il numero di casi nuovi è diminuito in modo molto molto significativo, e questo dimostra che queste riforme non sono rimaste lettera morta, anche se certo c'è ancora da fare, ma su scala globale non si può dire che si tratti semplicemente di rimedi che rimangono sui libri, perché le conseguenze concrete ci sono. Un recente rapporto dell'Università di New York mostrava proprio una curva che sembra una montagna. I casi sono saliti fino agli anni 1980, poi negli anni 90 cominciano a scendere, e oggi il numero di casi nuovi è simile a quello degli anni 50, ecco, che permette di dire che sono di meno. La pulizia è cominciata, questo è un po' l'idea che se ne ha, ma quanto sarà spinoso il documento che approderà oggi sul tavolo della CEI? Ma vede, l'Italia, noi lo sappiamo, è un paese in cui le cose buone e le cose cattive degli altri arrivano sempre con un po' di ritardo, per cui negli Stati Uniti gli anni della vera e propria pandemia, in cui si sono moltiplicati casi veramente atroci, sono stati gli anni 80. In Italia indubbiamente sia il fenomeno forse è esploso con un po' più di ritardo rispetto agli Stati Uniti, all'Irlanda o alla Germania, sia anche come conseguenza la risposta è arrivata in ritardo. Quindi si tratta semplicemente, ma è un semplicemente pesante, di replicare in Italia quello che in molti altri paesi è già avvenuto, quindi anzitutto che la CEI si costruisca una banca dati, arrivi a statistiche precise anche per l'Italia, che non ci sono in realtà, e poi applichi o si assicuri meglio che siano applicate, perché già dovrebbero esserlo in tutte le diocesi le riforme. E in Italia è arrivato in maniera sicuramente dirompente col caso di Genova, questo è inutile negarlo, anche perché proprio nella diocesi del presidente della CEI. Quanto peserà il caso singolo? Ma vede, il caso Seppia pesa molto mediaticamente, parliamo di 18 anni. Ma questo non toglie che comunque resti un caso grave, cioè che in qualche modo... No, è un caso molto grave che mostra come il problema della moralità del clero abbia parecchie dimensioni. Ricordo i casi denunciati da Panorama a Roma, casi anche questi gravissimi, ma che coinvolgevano esclusivamente maggiorenni. Quindi questo mi dà l'occasione di dire che la risposta della CEI sarà una risposta a 360 gradi, perché in Italia in particolare i casi di vera e propria pedofilia, cioè che riguardano bambini rispetto ad altri paesi, non sono ahimè inesistenti, ma sono per fortuna meno numerosi. Però ci sono casi anche gravissimi di efebofilia, di adescamento e violenze, casi particolarmente gravi e vergognosi se commessi da sacerdoti nei cui confronti si deve reagire. E vedremo come reagirà la CEI. Grazie Massimo Introvigne. Prego, arrivederci. Cambiamo argomento, lo stacco di prima edizione ci aiuta, ma cominciamo innanzitutto con un aggiornamento invece per voltare pagina che arriva proprio in questi istanti dalle agenzie, arriva dalla Nuova Zelanda dove sapete si sta giocando la Coppa del Mondo di rugby, c'è impegnata anche l'Italia, per l'Italia non è una buona notizia che l'italiano Andrea Masi non giocherà la partita domani contro gli Stati Uniti perché si è fatto male a un polpaccio, poco fa l'annuncio della delegazione italiana. Ancora, voltiamo pagina, l'abbiamo detto un po' nel corso di questa mattinata, grande attenzione puntata quest'oggi sui mercati dopo il fine settimana, dopo le parole del G20 e dopo un venerdì che non ha fatto certo sorridere. E a proposito di replicare cure in Italia, o meglio di replicare cure in Europa, di quelle che si parla è un maxi piano da 3.000 miliardi per salvare l'euro, è un po' la carta che il G20 sarebbe pronto a giocare per arginare la crisi dei debiti sovrani. L'ufficialità non c'è, però ormai sembra pressoché certo, il piano servirebbe soprattutto a rafforzare il capitale delle banche europee più in difficoltà. Franco Locatelli, direttore del sito firstonline.info, buongiorno. Buongiorno. È un cambio di passo, secondo te, quello che arriva dalla G20? Ma dunque, anzitutto dobbiamo verificare nelle prossime ore la concretezza dell'ipotesi di maxi piano da 3.000 miliardi per salvare l'euro. La concretezza è anche la velocità. Certamente il fine settimana ha rappresentato un salto di qualità per la crisi, una forte presa di coscienza che la crisi sistemica è nuovamente dietro l'angolo e che è questione di giorni, settimane, se non si interviene rapidamente ad evitare o quantomeno ad attenuare il default della Grecia, e è questione di settimane il rischio contagio. Quindi l'allarme lanciato da Geithner all'Europa mi è sembrato molto opportuno, ma naturalmente bisogna vedere, come dicevo prima, la concretezza della risposta. La concretezza e la velocità, due elementi fondamentali. Il Times questa mattina titola un massiccio piano di salvataggio in stile USA, ricorda molto quello di Bush nel 2008, sei d'accordo? Beh sì, il modello è quello, naturalmente però c'è un punto cruciale che non bisogna mai dimenticare. Ammesso e non concesso che questo piano venga effettivamente allestito e che parta rapidamente, questo piano consente di guadagnare tempo, di dare ossigeno, di attenuare l'impatto del default greco e di evitare il contagio, ma non risolve i problemi, perché i problemi non sono tanto nella liquidità, i problemi stanno nella fragilità dell'euro di fronte a shock esterni, cioè senza un'unione fiscale e un'unità politica dell'Europa l'euro non sta in piedi, e stanno soprattutto nell'altissimo debito pubblico di molti paesi a partire dall'Italia e dall'assenza di crescita. Senza crescita e senza una drastica riduzione del debito pubblico e senza un'unione fiscale se non politica dell'Europa, i problemi che sono all'origine di questa fase della crisi non si risolvono. E insomma, il nodo è in gran parte politico e torniamo sempre lì. Prima edizione. E con Franco Locatelli, direttore del sito firstonline.info, continuiamo a parlare degli appelli del forse nuovo piano arrivato del G20 nel fine settimana contro la crisi. Tu parlavi prima delle parole arrivate da Geithner. Quanto pesano gli Stati Uniti e la Cina sull'Europa in queste ore, secondo te? Beh, sicuramente è un forcing molto determinato e molto preciso che serve a risvegliare la coscienza di paesi che però prima di tutto devono mettere ordine in casa propria. Purtroppo ci sono paesi che hanno scadenze elettorali o politiche vicine, penso al voto del Parlamento tedesco sul fondo salva stati che avverrà tra pochissimi giorni, ma penso anche in Germania, penso anche alle difficoltà italiane, cioè è veramente paradossale che mentre il mondo, l'Europa e quindi noi stessi sono tutti alle prese con una crisi che rischia di tornare sistemica, noi ci si debba perdere in piccole cose e non riusciamo ad avere un governo all'altezza della situazione che metta i problemi della crisi al centro della propria azione. Per cui è molto importante decidere quali sono gli obiettivi ed agire rapidamente. Sì, il G20, ma insomma bisogna agire anche in casa propria. Grazie, naturalmente informazioni anche, ve lo ricordo, firstonline.info, Franco Locatelli. Grazie per essere stato con noi, buona grazie giornata. Sono le 6:50 minuti, c'è il Gazzettino del Risorgimento che ci attende prima di una nuova edizione di GR24. E allora io vi saluto qui almeno per quanto riguarda prima edizione. Peter Bescapè in regia, Alessandro Longoni in redazione, già pronta la redazione di GR24 per la prossima edizione del giornale radio. Tra pochissimi minuti, intanto ancora una buona giornata da Anna Migliorati.